La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. The cold clean air, it sets my boot heels on fire. But if I told you I'd forgotten my past, I'd be a motherless liar. Questa è la storia di Rocco Barbaro, ma fino a un certo punto potrebbe essere stata la storia di tanti ragazzi figli di un sud che ha dovuto lasciare andare i suoi giovani in giro per il mondo. I genitori di Rocco Barbaro sono calabresi. Arrivano a Torino negli anni del boom economico, quando mamma Fiat dava da mangiare a tante famiglie. Torino è una metropoli, i due ragazzi lavorano e mettono su famiglia. Dal loro amore nasce Rocco. Dopo qualche anno, tra turni, solitudine e nebbia, il ritorno a Reggio Calabria, ma solo per lasciare Rocco ai nonni. Un periodo, quello dell'infanzia, che il comico ricorda così. Io in Calabria ci ho passato degli anni bellissimi, cioè l'adolescenza l'ho trascorsa lì, dagli 8 anni fino a 31 anni ho vissuto lì, quindi ho vissuto la fase piena dell'adolescenza e anche della post-adolescenza, quindi ricordi meravigliosi quando ancora non c'erano grossi problemi da affrontare, cioè quindi un po' la vita leggera di un bambino e poi di un ragazzo, quindi senza grosse responsabilità, pesi, e quindi tutto bello. Poi sono partito per altri motivi e quindi poi è venuto il dopo. Però ha contato, nel senso che mi ha dato una serie di informazioni che sono state fondamentali per la mia vita, ecco. Rocco Barbaro è un comico, famoso inizialmente per la sua somiglianza con Michele Placido, poi diventato però noto per la sua pungente e sagace comicità. Questo, uno dei suoi celebri personaggi. Ma non potremmo chiudere una mezz'oretta prima? Ma perché? A una certa ora le pizzerie chiudono. No, senta, scusi, lei è tutta la puntata che mi dà fastidio. Poi l'ho già detto che... Ma non c'è niente che le interessa a lei, scusi. Qualche interesse ce l'ho. Mangio, bevo, fumo. E nel tempo libero me ne fotto. Sì, vabbè, senta, a parte che per piacere, veramente. Poi non si può fumare. Perché io penso, ripenso, rifletto, analizzo, faccio ipotesi, le smonto. Sono esaurito. Ma questo l'avevamo capito, eh? Esaurito, ma non così, alla grande. Ecco, ce l'avevamo resi conto. Non si può fumare in studio, poi le fa male, veramente. Io capisco sto tempo. Fumo 200 sigarette al giorno, 200. Ma mi fanno male. Se mi dicono fanno male, passo a 400. Sono tempi tremendi questi. Mi piace fumare, mi piace. Lo ingoio, lo mando dentro i polmoni e quando esce fuori lo rincorro. Che è mio. Lei è matto. Esaurito. Comunque è impossibile avere un dialogo con lei, eh? Sì, ma dopo che abbiamo avuto il dialogo, che cosa è cambiato nella mia vita? Anche questo? Cosa è cambiato? Niente, c'ha ragione, non è sbagliato. C'è internet, con la tecnologia ha provato? Me ne può. Ecco. Questa è la storia di un ragazzino, figlio di un'Italia smarrita, che per tirare avanti il carretto deve fare scelte dolorose. Rocco verrà cresciuto dai nonni a Reggio Calabria, mentre i genitori restano al nord, a combattere con la vita della metropoli. A Reggio, Rocco va a scuola, ha nel cuore qualcosa che lo scuote e lo fa sentire inquieto. Per caso, come in cerca di una cura a questa insofferenza, entra in un teatro. Lì si tengono dei corsi di recitazione. È l'inizio di una nuova vita. È la prima volta di Rocco Barbaro. Frequenta la scuola di dizione e recitazione presso il Teatro Calabria, diretto da Rodolfo Chirico e Gianni Diotaiuti. È il teatro che lo fa partire dalla Calabria verso Milano. Ecco, lei perché è partito? Perché ha lasciato la Calabria? Ma io l'ho lasciata perché, un po' l'ho lasciata perché forse sentivo il richiamo del nord, perché sono nato al nord, direi, no, a Torino, però l'ho lasciata perché volevo seguire delle cose che non c'erano lì, in particolare sono rimasto affascinato da un corso di teatro di un maestro che operava a Milano, e quindi poi mi sono trasferito a Milano, mi sono trovato molto bene, l'impatto con Milano è stato meraviglioso perché questa grande città, quindi vieni dalla piccola città, vai in una grande città, vedi un casino di cose che magari non ci sono nella piccola città, ti senti attratto e quindi sono rimasto a Milano. Ecco, lei ha scelto quindi in maniera molto netta quello che avrebbe fatto, cioè da ragazzo ha capito che la sua carriera, cioè la sua strada era legata al teatro, a scrivere per il teatro, a recitare, cioè come ci è arrivato? Ma probabilmente sono le combinazioni della vita che ti portano a scegliere queste cose. Per esempio, vabbè, io ho avuto un po' una serie di cose un po' particolari perché non fanno parte della cosa comune, dello sviluppo e dell'evoluzione comune di una persona, nel senso che i miei genitori si sono separati in tempi non sospetti, cioè negli anni tardi anni 50, primi anni 60 si sono separati. Per cui io sono cresciuto con i nonni per una scelta voluta dai miei genitori, e quindi probabilmente queste carenze, anche tra virgolette carenze affettive, perché i miei nonni sono stati i miei veri genitori e mi hanno portato ad attaccarmi al teatro, a queste cose, al bisogno di esprimersi, di mettersi al centro dell'attenzione, e quindi questo è stato un po' il bisogno poi che poi si è tradotto in una concreta realtà, quella di fare l'attore, di fare il comico, quello che sono, insomma. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shot. Il teatro è dunque l'ancora che salva Barbaro dai pensieri neri, dalla caduta dolorosa. È un salvagente capace di dargli forza, coraggio, che lo aiuta a credere nei sogni che ha chiuso sin da bambino in un cassetto. Ma sarà il viaggio a Milano e poi il debutto in TV a segnare l'inizio della storia di questo comico. Nel 97, al Pippo Kennedy Show, debutta il personaggio che lo renderà celebre. Se faccio un cruciverbo e non entra la parola che dico io, sì, la faccio entrare lo stesso. Come fa, scusa? Allargo le casette. Senta, le posso dire una cosa? In grande così amicizia, se mi permette, lei forse avrebbe bisogno di una compagnia. La compagnia? Dopo che ho trovato la compagnia, che cosa è cambiato nella mia vita? Per dire, mi ricrescono i molari? No, questo non credo, non mi è mai successo, non credo proprio. E allora? E allora? E allora? E allora? Bene, fotto! Lo sapevo. Il marito lo sa che lei è qua. Esce fuori di sera da sola. Ma lo sa, non si preoccupi, non si preoccupi, mi faccia continuare. Ma come non lo sa? Non lo sa. Io voglio dire, gli telefoniamo. Ma come gli telefoniamo? Ah, ti sto presentando, non vedi, c'è un'atmosfera, il pubblico. Io voglio dire, tra tutte le cose che lei può fare, proprio a me deve dar fastidio. Ma che fa tutto il giorno? Guardi, passeggio la mattina per essere libero il pomeriggio. Summer breeze showing off their silver leaves as we walk by. Soft kisses on a summer's day. Questa è la storia di Rocco Barbaro, un comico calabrese, arrivato a Milano dopo un'infanzia trascorsa coi nonni a Reggio Calabria. A Milano c'è ancora Zelig, un piccolo locale dove si esibiscono quelli che diverranno i più grandi comici d'Italia. Voglio dire, è stata fondamentale sicuramente la scuola che ho praticato, che ho frequentato a Milano, perché mi ha un po' illuminato questo modo di avvicinarsi, di stare sul palco, di fare questo mestiere che è il mestiere dell'attore. È stata fondamentale per me la conoscenza con questo maestro, no? E sicuramente però il trascorso calabrese, Reggino in particolare, perché sono di Reggio Calabria, ha influito tantissimo quindi anche la mia esperienza di vita è stata fondamentale nel dire poi quello che ho detto, nello scrivere quello che ho scritto. Non so se ci sia un talento innato, questo non lo so, non sta nemmeno a me dirlo, però è stato così, diciamo. Però diciamo che lei è stato paragonato a grandissimi, no, artisti della comicità, cioè si sono stati fatti nomi come Dario Fo, Gaber, Paolo Rossi, cioè lei è uno che si distingue proprio per questo tratto, cioè lavora molto sulla parola, è scarna, arriva in fretta, resta a lungo nella memoria, cioè questo lavoro qui comunque è un lavoro che prevede tanto tempo, cioè ci mette molto a scrivere i suoi testi. Ma diciamo che io non smetto mai di lavorare, nel senso che comunque è una condizione quasi esistenziale quella del fare il comico, nel senso che uno fa il comico sempre nella vita, ma non perché deve intrattenere o deve mettersi al centro dell'attenzione, perché secondo me una cosa è fare il comico e una cosa è essere comico. Probabilmente, scusi questi colpi di tosse, però ho un po' di tosse. Probabilmente essere comico fa parte della mia indole, della mia natura, e quindi c'è questa differenza tra il fare il comico e l'essere comico. Io mi sento più di essere comico, non di fare il comico. Senta, ci sono molte cose che stanno succedendo in questi ultimi tempi che riguardano la scena politica, eccetera, che sorprendono addirittura anche chi scrive, no, testi comici, perché vanno oltre l'immaginazione. Cioè, lei, insomma, come si immagina il futuro per il nostro paese? Ma io penso che, io sono sempre molto ottimista, nel senso che credo che sia un'evoluzione quasi naturale questa, di questi decenni, di questi anni, non so in che periodo vogliamo contestualizzarlo questo momento, però io sono sicuro che si va verso il meglio e non si va verso il peggio. Parliamo male del nostro momento, però probabilmente dovremmo confrontarci con le persone che hanno vissuto 50, 60, 100 anni fa e vedere come stavano loro, come si sentivano loro e come vivevano loro. Credo che questo sarebbe fondamentale fare. A Zelig arriva Rocco dopo aver fatto una lunga gavetta e aver studiato teatro. La sua comicità acuta lo fa decollare subito tra i grandi. La critica lo paragona a Dario Fo, Giorgio Gaber, Paolo Rossi. Al compleanno della zia Rosina il disco suona, loro sono lì a giocare vicino al mare verde, come la notte, come le mie cotte. Un talento indiscusso, una vita in pieno decollo artistico, che si deve però arrestare quando nel 99 Barbaro cade da una scala. La caduta lo costringe per un lungo periodo a una riabilitazione. Il ritorno sulle scene è lento, ma Barbaro recupera. Il sogno resta dunque saldo. Così, dopo diversi ruoli in film italiani e il ritorno sulla scena televisiva, Barbaro torna anche a teatro, con la storia, la sua storia, che è un po' quella di tanti ragazzi partiti dalla Calabria e dal sud alla volta delle grandi città del nord. Un mito ed ho capito che devo ancora avere. Il treno non passa ancora, eppure io lo aspetto. In maniera molto ironica e molto, sperando, di divertente, quello che sto un po' raccontando a lei è un po' la mia storia. Io racconto la mia storia perché è la prima cosa che ho trovato da raccontare, e quindi racconto la mia storia con la sua, partendo da, appunto, da Reggio Calabria, da riferimenti a questa città dove ho vissuto, e poi l'approdo a Milano, che è stata fondamentale per me, una città che io continuo ad amare e che ho amato, anche se ora non ci vivo più perché sono a Pordenone, mi sono trasferito, si può dire all'estero, prima in Italia a Milano e poi all'estero a Pordenone. E quindi, però, non dimentico questo grande amore che ho avuto e che ho ancora per questa Milano che mi ha dato veramente tanto. E quindi racconto un po' la mia vita, la mia storia. Ma ci sono dei passaggi che a lei piacciono molto, per esempio anche di questa sua storia? Ma il rapporto, per esempio, con la sistemazione in una grande metropoli, no? Che è cercare casa, no? Io mi ricordo che tanti anni fa lavoravo, io devo dire sono uno di quelli fortunati, nel senso che io comunque ho avuto un lavoro che mi ha dato la possibilità sempre di fare anche questo mestiere di comico, però essendo un po' garantito anche da quest'altro lavoro, no? E quindi quando sono arrivato a Milano, no, mi sono messo a cercare casa, no? E il problema è stato quello di trovare una casa che mi ospitasse, e la cosa che mi ha meravigliato, venendo da Reggio Calabria dove questo problema non esisteva e forse non esiste ancora, si parlava di angoli, angolo cottura, angolo letto, angolo studio, angolo qua. Alla fine ho pensato, io per andare a cagare devo applicare il teorema di Euclide, e per fortuna avevo fatto il liceo scientifico e qualcosa di matematica ancora mi ricordavo, e quindi ho avuto anche la possibilità di andare in bagno. Senta, ma invece questa cosa che assomiglia a Michele Placido, gliela dicono ancora o finalmente se n'è liberato? Ma guardi, ogni tanto qualcuno me lo fa notare, però adesso forse è cambiato lui, forse sono cambiato io, forse non è più in auge come lo era un tempo Michele Placido, quando faceva La Piovra e tutti parlavano di questo fenomeno televisivo, però quando io lo accenno la gente guarda e dice sì, in effetti c'è qualche somiglianza. E però sono stato fortunato, perché Michele Placido comunque è un bravo attore, detta di tutti un bell'uomo, e quindi è stato meglio somigliare a Michele Placido che non, che ne so, a Marisa Laurito, per dire, ecco, per citare una scritta del mio spettacolo. Volta termina qui. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e per le mail che ci inviate all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci scaricando il podcast. Ci ritroviamo domenica prossima, sempre attorno alle 13. Grazie mille e buona domenica da Cristina Carpinelli.